problema lì. Allora, però non riesco a quando sta arrivando il cappuccino sto andando strano. Cosa sai senza mangiare? Una cosa non la puoi mangiare, l'altra non la puoi mangiare, cosa stai senza mangiare? Qualche cosa la dovrei mettere in corpo? Non so, però... Oh, yeah, they're very good. Oh, man. Oh, no, man. prende la svizzera. Però questo è tutto, capito? Però se come quando faccio colazione, che qualche volta mi sono permesso, ma proprio qualche volta, di prendere magari una frittella e poi metto il dolcificante nel cappuccino e mi prendo in giro e dice, cazzo, ti mani la misura e ti metto il dolcificante nel cappuccino. E ma io non voglio accumulare i zuccheri, scusa, se l'ho mangiato con la pasta, lo zucchero non è che lo devo mangiare anche con il cappuccino. Sì, io faccio così, va bene, non va bene, il frittello non lo dico, va bene, però qualche volta ho preso un corsetto, ho senza niente, oppure quando c'è la crema, per esempio, il corsetto va un po', ho toccato la crema, durare un po', e c'è proprio un corsetto, ho detto, domenica non vedo, quando stavamo tornando, sono stato a vedere per il piano, è all'angolo, ecco la c'è una gelateria, che non si sono, la gelateria mi chiama via Roma, a partire da gelateria del centro a Roma, dove c'è una gelateria, stavo passando, ma è passato a vedere come mangiare, sei stato qua a chi, stava qua, la macchina, prendere la gente della bottega, che io distrugge. Come siamo fermati? Questa è gelateria, ma questo è gelato buono, ma lei ci ha fatto un gelato di quella figlia. Io mi aspettavo, poi risultato, non si vede, io lo dico, ma era di un buono, infatti mi ha detto, guarda, chiama la gente, e mi ha mai da sé che ha preso il mangiatore gelato. Sì, io anche io andavo lì prima, e lo facevano anche, se ti ricordi, con quella macchinetta che lo fa tutto quanto attorcigliato, il gelato, lo fa tutto a spirale. E quello era un bel buono, lo prendevo sempre, ma adesso secondo me hanno cambiato i proprietari, non ci sono più quelli che c'erano prima. Sì, ma quel gelato lo sai che è un gelato abbastanza quelli che fanno via l'azienda, cazzo. Ti mettono una macchinetta, è buono, però e a Roma questa volta mi ha mandato perché dobbiamo parcheggio di vicino, questa volta io non voglio mangiare il cazzato, dolore. Per cui per conto dove andiamo, poi abbiamo anche un'altra gelateria, guarda, questa gelateria ha un sacco di creme catalane, creme di sano, tutti ci da su. E laddove facilmente la mia campo, quello del campo, ma non c'è già di lì. Senti, perché hai la via del mercato? Nella parte alta, però non la parte bassa, la parte su, e diciamo dove c'è il pesce, la porta del pesce di Comarca. Allora, credo che con la via va la fine, via, e si perde. Oh, a mercato, vai lì, non ce la sbaglia, che forse vai sempre qua perché non si può fare. Sulla destra, questa gelateria si chiama Ciro, gelateria da Ciro, come fanno a visitare? Guarda, è una cosa figlia, infatti gelato, ma hanno questa risposta, non lo so, questi piatti, se queste funzioni, assai tutto. Noi andiamo perché il fratello può mangiare, mi ha cognato anche mia moglie, che anche Antonio di mangia, Antonio, guarda, se vai da Ciro, poi ci torni. Io ne ho girato di fusti lì Alghero, anche ristoranti e cose, sono. Ma io solitamente in gelateria, non so dove vado, prima andavo al Capriccio a Porto Torres che lo facevano molto buono, il Capriccio non so se sa dove, praticamente salendo dal corso alla fine, proprio dove c'è quella biforcazione che più una va via Sassari e l'altra prosegue via cosa, Vittorio Emanuele. E poi ce n'è una che dove si vede proprio il mare per andare alla 167, che lo fa molto buono lo stesso girato, che lavorava da Ernesto quella lì. E poi vado a Portamona, vado dove c'era Ernesto lì, siamo amici, lo fa molto buono il gelato. Aspetta, hai detto c'è stato, sai che dove sta via la sedia prima, ma non è accesso, no? Allora, praticamente tu venendo da Platamona, per andare verso il produttore, se scendi dritto, sarà, allora dopo l'incrocio sarà un 100 metri, sulla sinistra rimane, non è sul mare, c'è la strada, il mare, si vede il mare, capito? E puoi mangiare anche fuori il gelato, ci sono gli ombrelloni, eccetera, eccetera, per mangiare. E lì lo fanno molto buono lo stesso, gelato in coppetta, fanno tutte queste cose qua, in bicchiere, col bicchiere, con la coppa. Quello, guarda che sei diabetico, non la devi mangiare, questa è la tua coscienza che te lo dice. Che si è mangiato il gelato, che c'è, non ha fatto che ce l'ha fatto. E sono arrivato con un programma di pian piano, sì, esatto, si rimane sulla sinistra scendendo, c'è uno spiazzo con gli ombrelloni eccetera eccetera lì. E io già una sera ho parcheggiato e me ne stavo scendendo dalla macchina. soprattutto la casa da corte. Ero abituato che adesso la voce di prima sulla salotte. E vestite quello, ma tuttora ci siamo anche vestiti, perché poi stavamo bene, programmavamo, girare, abbiamo girato, poi cambiamo, bene, la riesce a morire. Io ti conosco una vita, sono anche venuto con la casa io. Mi avevi fatto vedere il tuo 5024 che avevi, il 5008, tu eri appassionato di toccarti, ma mi ricordo come se fossi oggi. Io le cose lontane me le ricordo. Frequentavamo Antonello Manuel, te lo ricordi Antonello Manuel? Sì. Mi pare che il 5008, il 5008, quello del canale, ma l'avete visto lui, mi pare che sto caldo, però non ha parlato un piano. E mi pare che io abbia provato un passo alto, un po' altri anni, non ha mai fatto. Sì, l'ho potuto subito toccare. Forse qualcuno c'è ancora, forse c'è la segnata c'è 5.24. Ma quello è bello. E ti ricordi anche Angelo, come si chiama? Non Asso, Angelo. Ma Shadow 2. Angelo Melo, ti ho conosciuto assieme, ma lo ricordo. Quello è morto. Lo so che era morto, ma l'avete tutto con la battuta, perché poi con Angelo siamo usciti morti, lui era molto piccolo, lui era più giovane di me, io venivo sempre a trovarli, lui abitava via di Pascoli lì, e una volta ha convidato una festa culturata, mi ricordo, ora abbiamo uscito a Nino Pilla, lo prendi, oro Pilla, il pieno rotto, dove si spaccava la pietra, c'era quasi un centro che ha dato me, sto per me. A un momento non riuscivo ad alzarmi. Antonello, Manuel. Praticamente abita Alghero adesso, prima era in Russia e poi è tornato qua, abita Alghero, ho trovato una sorella io e mi ha detto che abita Alghero. Davvero? Io ho sempre voluto in Russia? Beh, io non l'ho più incontrato, la comunità è una bella ragazza, ci siamo conosciuti, si curano. Non sapevo che fosse rientrato e lui quando l'ho conosciuto io aveva il padre aveva una roba elettrica. Sì. Eravamo molto amici con Antonello, tu pensa che la madre e il padre lavoravano tutti più negozio, quindi lo lasciavano dalla nonna. La nonna abitava nella porta di fronte a mamma, eravamo sempre insieme con Antonello, da ragazzini, sempre insieme. Mi facevo il fischio e io scendevo giù e andavamo a prendere tirighette. Sì, ma io forse meno. Ciao Gianni. La terra, la luce, la luce. Non è un L, c'è di differenza. E vabbè, comunque, me lo ricordo bene, c'era il carbonaio lì dove c'era Angelo. Vabbè, dai, io ti saluto, tanto sto andando via anch'io che devo portare giù il cane, dai. Ci sentiamo, ciao Natalia, sì, buona serata anche a te, ciao. Ciao, altrettanto, buon proseguo. Ciao Bru, anche a te. Natale. Ciao Giacci, ci sentiamo, anche io devo portare con Ciuccio adesso. Oh Natalia, io domani sono lì, se per caso scendete, colpo di talento, magari ci sono, perché io faccio il pizzo, i canti faccio il pizzo, non lo so, poi arrivo al momento, per sentiamo, ciao Rosario, ciao Brucia. Natale. Puglia. Ciao, ah, buonasera, sono stato anche a Gianni, ma forse non mi ha sentito. L'altro amico non lo ascolto quasi niente, quindi non so chi sia, Bruno Ragano, però sta andando al garage, quindi non lo sentiremo più. E stavano chiudendo tutti e due. Ciao Tino. Cappa, va bene, dai, salutone, salutone. Ciao ciao. Ma fammi dare un controllo in questo microfono. Buono. Stai andando bene. Va bene, non è molto amplificato, non raccoglie ondetta, quant'altro. No, è di lusso, va bene. Va bene, dai. Ah, in quel canale là non state più entrando. Perché io sono passato parecchie volte e non ho sentito più nessuno. Dipende se coincide natalizio. Perché purtroppo devo andare a lavorare presto. Quindi non facciamo cassa, giusto l'ultima settimana, capito? Ok, va bene. No, ero un po' senza sentire Gianni, adesso l'ho visto su TikTok cantando, a suo cantare. Chi è Gianni? E allora? Sì, tutto emozionato, tutto sorpreso. Mica, via. Ma tu stai andando via oppure rimani tipo? Se no chiudo anch'io. Ma guarda, io sono entrato giusto 2 secondi perché sto aspettando mio figlio che esca dal bagno, che mi devo fare la luce, sono appena entrato anch'io dal lavoro. Non ho capito. E quindi ho fatto una sfattolata veloce per vedere chi c'era e così, provare questo mic. Va bene. Ci sentiamo, allora io me ne passo in QRT perché non posso rimanere, se no già sarei rimasto, là. Ci sentiamo alle prossime T. Sì, tranquillo, non c'è problema, dai. Faccio anche io, devo scappare. Va bene, ciao, buona serata. Io che tanto ciao.